Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ormai anche, cioè, sui marciapiedi non si può più camminare, devi fare lo slalom fra gli escrementi, non tanto su questa strada ma sulle strade laterali, e i muri sono tutti imbrattati, cartacce, adesivi sulle vetrine, insomma non è piacevole all'occhio, diciamo, più che altro. È in questa situazione, in questa mancanza di responsabilità civile, che un gruppo di cittadini, che ha preso personalmente parte al movimento quando hanno visto le mura dei loro palazzi colpite dai rioters, ha dato inizio ad un movimento di volontari chiamato Retake Roma, uniti da uno stesso proposito. Bisogna vincere una barriera. Molti di noi, me compreso, siamo tutti umani. Io devo dire che non avevo mai sentito parlare di gruppi organizzati di pulitori di graffiti urbani, ma anche di pulitori di città, o perlomeno non in maniera così organizzata, così sistematica. Mi sono accorto stamattina, guardando un grosso servizio dei Retake Roma, che è un gruppo organizzato, forse il più forte, in una free press leggo che avevo preso in metropolitana. E mi sono reso conto che agiscono da molti anni, mi sono reso conto che sono tantissimi, mi sono reso conto che hanno una loro rete capillare attraverso i social network, agiscono, ci sono dei manuali con le attività da mettere in corso, mi sono reso conto che ci sono dei luoghi di convocazione, mi sono reso conto che per tante persone il tempo libero viene applicato per pulire lo schifo delle città. Sapevo di siti specializzati nella segnalazione attraverso foto delle brutture delle città, Roma fa schifo, uno tra l'altro, ma in tante altre città funziona, è molto facile andare in giro con lo smartphone, fotografare mucche di immondizia davanti al cassonetto, lo stato di degrado e postarlo immediatamente in un sito, un'attività che in fondo non costa nessuna fatica, ma l'attività invece di queste persone è un'attività che richiede un impegno concreto, costante, faticoso. E uno si domanda, ma chi glielo fa fare? Quale profonda e reale, tenace, condivisa spinta etica hanno per fare un lavoro del genere? 800 24 00 24, nelle vostre città esiste qualcosa di simile? Esistono dei pulitori organizzati nelle città che in maniera volontaria puliscono lo sconcio che gli altri fanno? 800 24 00 24. Hanno imbrattato edifici demaniali, palazzi storici e abitazioni del centro con più di 400 disegni. I carabinieri, dopo un'indagine di alcune settimane, hanno individuato 4 rioters che con i loro murales hanno causato danni per decine di migliaia di euro. 3 sono studenti, uno ha 17 anni, gli altri 2 ne hanno 18 e 19. Il più vecchio ha 25 anni e fa il grafico di professione. Il dispendio di risorse è quantificato in almeno, penso, 80.000 euro circa. Chiaramente la risorsa e la spesa 800 24 00 24, da una parte c'è il blocco compatto di quelli che dicono che in fondo alcune attività espressive come lo scrivere sui muri fanno parte di una sorta di arte povera, di arte minore, di necessità di espressione di categorie marginali, oppure va rispettata, ma io vedo che nella maggior parte delle città ormai le persone che vogliono esprimersi artisticamente con la bomboletta spray hanno spazi a loro disposizione, non occorre più che vanno di notte a imbrattare metropolitane. Ma è anche brutto pensare che esista una sorta di tutela dell'intangibilità delle città a cui non dà spazio a interpretazioni, libere espressioni. Ma in questo caso eravamo di fronte a una attività ben precisa di persone che puliscono quelli che gli altri hanno sporcato, e lo fanno gratuitamente e lo fanno per sola loro spinta personale. Antonino Battaglia, buongiorno. Buongiorno a lei. Lei rappresenta Retake Roma? Sì, in questo preciso momento sì. Ecco, ci spiega bene, perché visto che è qualcosa che sta emergendo adesso nei media, anche se voi esistete da parecchi anni, mi sembra. Sì, noi esistiamo dal 2010, ovviamente nel 2010 eravamo molti di meno e poi con il tempo siamo cresciuti e il boom vero e proprio l'abbiamo avuto quest'estate, quando abbiamo avuto la massima partecipazione, soprattutto grazie alla conoscenza di Retake Roma che è avvenuta mediante i social network. Ecco, come funziona, diciamo, l'operazione di mobilitazione, di comunicazione, di condivisione, e come funziona poi l'operazione reale, concreta sul territorio? Allora, noi in Retech Roma definiamo quello che facciamo più che altro come un modo di essere, perché vivendo in una città dove è palese lo stato di degrado, riteniamo che la città dove viviamo non sia altro che una proiezione di casa nostra e come tale deve essere quindi rispettata, bisogna prendersi cura di casa nostra. E quindi noi ci siamo organizzati in gruppi di quartiere, ora siamo più di 60 gruppi di quartiere perché l'entità territoriale di Roma è molto vasta, e settimanalmente ci organizziamo per andare a pulire, a portare un po' di decoro, ma anche a portare educazione civica, quindi il messaggio di rispetto, perché come ho detto prima, il rispetto verso il bene pubblico è il rispetto verso noi stessi, è il rispetto verso la città in cui viviamo, quindi verso... Ma voi appartenete a qualche organizzazione, gruppo di pensiero? Lo dico perché così almeno... Noi non è che apparteniamo, noi siamo normalissimi cittadini, noi siamo apartitici e noi vogliamo solo che ci sia più consapevolezza nelle persone che rispettare la città, rispettare i propri spazi pubblici è una cosa che deve essere considerata come normale, e per questo non è che abbiamo una definizione vera e propria. In quale orario della giornata operate concretamente? Non è che abbiamo un'organizzazione specifica, cioè il Retech può avvenire anche in 5 minuti mentre aspetto l'autobus presso la fermata. Diciamo, è un atteggiamento costante. È un modo di essere, un atteggiamento costante. Vedo un'affissione abusiva, un'affittasi su un palo pubblico che non può stare, lo tolgo. Sì, ma devi procurarti anche, diciamo, degli strumenti del mestiere, non so, per togliere una scritta. Lo strumento fondamentale che utilizziamo è il raschietto. Quindi girate sempre con un raschietto dietro? Sì, noi solitamente giriamo sempre con quello, riesce a togliere gli adesivi abusivi che poi sono causa anche di discariche abusive, quindi creano problemi. Che sono migliaia, non c'è fermata dell'autobus, palina della luce, semaforo. Purtroppo molte persone lo ignorano perché ci sono cresciute con questa visuale della città, ma tutto quello che vediamo è qualcosa di non normale e che quindi bisogna... E contro le scritte, diciamo, fatte con la bomboletta spray, come operate? Cosa allora, innanzitutto quelle noi vogliamo distinguere quella che è l'arte legittima, la street art, che è una forma di espressione e autorizzata e legittima, la consideriamo come uno strumento di contrasto al degrado. Quando la street art è legittima e autorizzata, è una forma di espressione di arte che può favorire il combattimento contro il degrado. Voi operate sullo scarabocchio fatto con la bomboletta spray? Mentre lo scarabocchio fatto su una proprietà che sia ad esempio una fermata dell'autobus oppure pubblica, quindi oppure una proprietà privata, e ci adoperiamo mediante degli strumenti ad hoc, quindi il gel antigraffiti, e li rimuoviamo. Quindi è necessario procurarsi un kit non indifferente. Fermiamoci solo un secondo perché arrivano le prime telefonate. 800240024. Oggi vogliamo portare allo scoperto le varie tribù urbane che operano in silenzio e gratuitamente per pulire le città. Nessuno a loro lo chiede, ma fanno un lavoro per tutti. Francesca. Sì, buongiorno dottor Nicoletti, molto contenta di parlare con lei per la prima volta. Io abito in una zona montana della provincia di Varese e praticamente nel mio comune, ormai da anni, mi occupo un po' anche perché sono veramente appassionata di arte funeraria e perché considero i cimiteri dei presidi di memoria collettiva che raccontano tantissime storie. Bisogna dire che i cimiteri sono degli ammassi, esatto, di residui umani. Di tenere pulito al di là di quello che è l'attività del comune, che magari tante volte è un po' così approssimativa. E quindi lei è una retech cimiteriale praticamente? Io, diciamo, da volontaria, da cittadina volontaria. E come opera? Con che strumenti opera lei? No, mi faccio carico io, perché non solo, diciamo, quella che è proprio la pulizia dei viali, eccetera. Io restauro tombe antiche che magari perché non ci sono più parenti sono dimenticate, no? Comprando appunto bombolette spray per rifare le croci in legno, chiodi, pennelli, tutto quello che serve, piccole spese. E mi autofinanzio sta facendo che cosa? Andando magari alla discarica, trovando degli delle cose che poi rivendo ai mercatini dell'usato. Ma cioè, non è che rivende le croci che prende le tombe, no? No, assolutamente, anzi, ora le persone che cominciano a conoscere la mia attività, prima per dire la croce vecchia da cambiare la spaccavano in quattro, ora magari me la mettono vicino al bidone e io ritengo che se è recuperabile la posso utilizzare per cambiarne una magari ancora più marcia, capito? È tutto un giro così. Comunque, vede, questo significa che esiste un atteggiamento generale positivo nei confronti del degrado, che piuttosto che aspettare sempre lo faccia qualcun altro, fa tirar su le maniche e farlo. Nelle vostre città quali sono gli elementi di disordine, di fastidio, di sporcizia che più vi danno fastidio, oltre le scritte su muri? Cos'altro, cosa vi sentireste di fare o cosa fate in concreto? Roberto, buongiorno. Eccolo qui, mi sente? Sono io? Sì, ascolto. Sono io, perfetto. Allora, guardi, io chiamo da Latina praticamente e il discorso è questo. Io ho chiamato, la prima volta che parlo al telefono, quindi mi trovo un po' a disagio. Però devo dire questo, l'argomento è molto interessante. Perché le scritte sui muri purtroppo è una cosa che a lei danno fastidio. Momento, è del momento praticamente. I giovani di oggi praticano questa. Sì, però Roberto, al di là del commento sulle strisce, sì, se lei danno fastidio, le è mai venuto in mente di fare quello che fanno queste persone? Sì. Di pezzarci lei personalmente? Che faccio io personalmente. Di pulirle lei personalmente se le danno fastidio, non ha mai pensato? Ma no, di pulirle no, ma io direi che di lanciare casomai un appello a chi ascolta, no? Che si dovrebbero lasciare dei spazi nelle città. Ma già lo fanno, danno ampissimi spazi. Quello già lo fanno, diciamo, gli artisti urbani già hanno vari spazi per fare quello che vogliono. Si aggiorni un po' che magari forse questo le permetterà di intervenire, visto la prossima volta, questa era la prima, in maniera leggermente più coerente. Ci fermiamo un istante, diamo l'informazione del traffico, poi riprendiamo perché interessa sapere quello che invece fanno i nostri retake a Roma, oltre naturalmente andare per strada e staccare le etichette abusive sui pali della luce. 800240024, oggi stiamo parlando dei ripulitori delle città, volontari in azioni totalmente gratuite, si adoperano per riportare la città a uno stato di decenza che oggi viene offuscato, coperto da un'infinità di apporti, non soltanto le scritte abusive, non soltanto i manifesti abusivi, ma tutta un'infinità di altri piccoli oggetti di promozione ai quali siamo abituati, come diceva il nostro ospite. Non riusciamo più a pensare a un cassonetto alla spazzatura senza un'infinità di etichette di persone che vuotano le cantine, svuoto cantine, svuoto garage, faccio Robby Vecchio. Antonino Battaglia è un retake romano e rappresenta i 62 gruppi organizzati che stanno operando a Roma. Voi avete mai avuto rapporti diretti con gli imbrattatori, con le persone che... perché in ogni adesivo appiccicato, in ogni palo della luce o semaforo c'è un numero di telefono. Vi è mai venuto in mente di telefonare e dire ma perché fai questo? Assolutamente sì, lo facciamo spesso, però loro sanno che sono impuniti e quindi continuano purtroppo. E da questo punto di vista noi abbiamo collaborato, fatto più richieste alla polizia locale affinché si potesse risolvere in qualche modo il problema. Loro di per sé hanno fatto delle indagini. Il problema è che poi la magistratura, a quanto pare, ancora non risulta molto collaborativa. Figuriamoci, è indietro con gli omicidi. Vediamo se capisci. Non hanno, cioè la magistratura non ritiene al momento qualcosa di rilevante. Ecco, ma avrete studiato tutti i regolamenti. In realtà è un'affissione abusiva anche l'etichetta. Con l'etichetta dice sono 5 centimetri per 10, che vuoi che sia, ma quando c'è essere migliaia che riempono un'intera area è un impatto grosso. È incredibile l'impatto, assolutamente. Poi vanno a vantaggio di quelle aziende che legittimamente si fanno pubblicità ma che non vengono viste, perché ormai l'abusivismo ha fatto è ovunque in questa città. Quali sono le categorie umane che più imbrattano le città? Allora cominciamo, politici che attaccano manifesti abusivi con loro partiti politici, la tipologia di poster imbrattano e poi ovviamente si scusano dicendo che loro non potevano sapere. Poi c'è una grande sanatoria, so, alla fine non pagano mai le multe, possono farlo. poi abbiamo sempre, per quanto riguarda i poster, purtroppo anche alcuni centri sociali, anche se ultimamente stiamo cercando di dialogare con loro per far comprendere il problema. E poi, passando invece a piccole affissioni, quindi passiamo a traslochi di queste aziende, a volte neanche sì. Svuoto cantine, svuoto tutto, esatto. Questi qua, che sono tante. A volte non esistono come soggetti giuridici, in quanto non hanno partita IVA, quindi non emettere... È un signore con la petto, col camioncino, che fa un servizio. Esatto, che fa un servizio e poi scarica presso i bellissimi parchi con tranquillità. E poi abbiamo negli affitti, si vende anche di, purtroppo, di agenzie immobiliari che ormai sono entrate in questa prassi illegittima di affiggere presso demanio pubblico ciò che quindi non compete loro. E poi abbiamo i privati che, ovviamente, vedendo che tutto questo ritengono che sia normale, procedono in questa direzione. E questo parliamo delle affissioni. Poi abbiamo ovviamente le scritte, quindi abbiamo anche gli atti vandalici, a volte anche purtroppo su reperti archeologici come le mura aureliane e quant'altro, e dove ovviamente noi non possiamo intervenire se non mediante la collaborazione stretta che abbiamo con l'amministrazione, perché essendo un reperto archeologico oppure presso edifici che hanno un valore storico, chiaro, non possiamo assolutamente... L'intervento deve essere tecnico, se no si fa più danno ancora. Tom, io vedo nelle foto pubblicate su Leggo la differenza radicale, di cui non mi ero mai reso conto, tra una parete della città di Roma, come normalmente siamo abituati a vederla, e come è ripulita. Sembra di entrare in una sorta di paesaggio metafisico, uno non riconosce nemmeno la città che ormai siamo abituati a vedere così sovrapposta di tanti interventi vandalici. Sentiamo Nino, buongiorno Nino. Buongiorno a voi, come state? Tiriamo avanti. Allora? Dunque, io chiamo da Milano e rappresento un'organizzazione, che si chiama Quattro Tunnel, lavora in questo ambito, cioè ripulendo scritte vandaliche soprattutto, questo è il nostro grande problema. Operate nei tunnel preferibilmente ovunque? No, i tunnel, diciamo, è la localizzazione, noi siamo vicini alla centrale, quindi stazione vediamo centrale, la centrale e i tunnel che passano sotto il rilevato ferroviario. Noi che abbiamo... è una zona abbastanza toccata, diciamo. Toccata in maniera impressionante da queste cose. Noi abbiamo una organizzazione un po' come Retake Roma, che ammiriamo moltissimo e alla quale vogliamo fare non solo i complimenti, ma vogliamo... Ecco, voi come siete organizzati? Loro lavorano molto nei social network. Siamo organizzati, diciamo, per strade, il coinvolgimento è quello dei condomini, noi a base condominiale l'organizzazione di questa strada, e in un certo giorno, potenzialmente sabato o domenica, facciamo interventi di questo tipo tutti insieme con i condomini, perché riteniamo che non solo l'intervento sia necessario, ma anche il mantenimento successivo da parte dei condomini che hanno fatto la prima pulizia. Ma avete mai colto sul fatto un lordatore, un affissore abusivo? Qualcuno, anche se ci conoscono ormai abbastanza bene, noi siamo in un'area, come dire, molto grande, 140.000 persone, però... E come vi vedono, diciamo, i funzionari addetti alla pulizia delle strade, gli operatori ecologici a tutti gli effetti? Una concorrenza? Noi abbiamo uno strettissimo legame e c'è una reciproca simpatia, c'è anche l'amministrazione comunale che ci dà una mano. Come diceva il collega Romano, non potreste fare il vostro lavoro senza la collaborazione con le istituzioni comunali. Certo, chiaro. Maria Teresa, buongiorno. Maria Teresa. Buongiorno a tutti. Voi cosa pulite? Noi puliamo il mare. Dove state? A Sori, in provincia di Genova. E ogni anno gli Amici del Mare Sori, che è un'associazione privata di spiaggia, diciamo, organizza una grande festa alla quale partecipano adulti, ragazzi, bambini, subacquei, che si occupano appunto sia della pulizia dei fondali che della pulizia della spiaggia. Ecco, le spiagge soprattutto, perché molte volte vengono lasciate in condizioni miserrime. Mi piacerebbe capire, c'è qualcuno che poi pulisce anche i prati, i campi, i giardini pubblici, che molte volte sono impraticabili, impossibile portare un bambino in un giardino pubblico. Vorrei sapere, ci sono categorie di persone che di questo si occupano nello specifico. Grazie, buongiorno. Grazie. Pronto, sì, buongiorno. Sì. Volevo solo dire che, visto che hanno preso chi ha danneggiato i muri eccetera, farei ripulire i muri a queste persone, ecco, sarebbe molto importante. a lei impone una sorta di legge del taglione, è sporcato, esatto, adesso pulisci. Esatto. Però è un po' diverso rispetto a quello che stiamo raccontando questa mattina. Questa mattina è un gesto spontaneo, vale in quanto nessuno queste persone ha chiesto di farlo. E lo fanno, e in fondo il risultato lo vediamo anche noi. E lo hanno fatto finora in maniera abbastanza sommessa, tanto che da poco cominciano a parlarne i media. Maurizio. Sì, buongiorno. Lei cosa pulisce? Pianto alberi. Pianta alberi, dove? Pianto alberi. Ma allora guardi, non so se succede solo nel mio comune, ma qua gli ali alberati o che ne so se io... Se ogni tanto ne tagliano qualcuno, certo. No, non ne tagliano, li piantano in tempi, anche quando non va bene, cioè piantano alberi con le foglie già su in tempi sbagliati, non gli danno l'acqua la prima estate, insomma ne muoiono mezzi e questo non lo sopporto. Poi non vengono rimpiazzati, allora cosa faccio? Prendo alberi e li vado a piantare io. Piantano, li pianto dove mancano. Cioè nei pubblici viali lei fa la buchetta, leva l'albero marcito e ce ne mette uno nuovo. Bravo. E poi gli do acqua la prima estate, che poi è quella l'estate. Cioè ma li pota, li segue, li cura per tutto. No, poi quando vanno a tagliare l'erba e fanno le cose, tagliano anche quelli che ho messo io, i rametti, quello che serve. Quindi lei è un rimpiazzatore di verde pubblico laddove non, le maestranze lo fanno con poca cura e con anche, mi sembra, con poco mestiere. A parte poca cura, il fatto che li piantino anche in momenti sbagliati, non vorrei ci fossero dei business poco chiari sotto. Mi sembra strano che vadano a piantare in giugno gli alberi, per dire, o che ne so, in agosto o in settembre. Sembra già una cosa fatta perché muoiano, non lo so, insomma. Comunque mi costa poco, prendo un alberetto, io vivo a una casa con un parco di 3.400 metri quadri dove mi nascono anche spontaneamente, quando arrivano alti un paio di metri li prende e li pianta. Vabbè, abbiamo questa mattina fatto una rapidissima quanto efficace carrellata sui guardiani silenziosi del decoro delle città. Molti strillano, vanno in piazza, se la prendono con tutti, hanno ragione, ma altri invece operano. A domani.